si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io sono in Lega a lavorare qui con tutti gli altri e stiamo cercando di verificare se la prima di campionato dell'anno prossimo, Sky permettendo, ce la giocheremo in 10 città del mondo diverse, in modo tale da portare l'Italia, calcisticamente parlando, fuori da quella che è la miseria del provincialismo dove siamo stati relegati. È la bomba, la notizia vera è che finalmente è tornato. Ci è mancato tanto, ci è mancato per lungo tempo, forse troppo, è stato zitto, è stato depresso. De Laurentiis è tornato e questa mattina così parlò. Giorgio De Luca, nostro autore. Pierluigi Pardo, collegato al telefono. Ciao Pier. Ciao. Finisco il giro. Filippo Regi in regia, Daniele Bonavici in redazione, Giovanni Capuano qui con me. Che sto prenotando i voli. Stai prenotando per i voli? Bangkok. Aspetta. 22 agosto. Bangkok. Le città sono queste. Carpi, poi diciamo Sassuolo. Anche, diciamo dove va Pardo. No, è un'idea che però ho abbracciato subito, è un'idea di Silva che, devo dire, ci ha regalato questa bellissima intuizione partendo da Londra e poi l'appetito viene mangiando, abbiamo detto perché non mettiamo New York, Londra, Parigi, Giacarta, Pechino, Shanghai, cioè capito? Secondo me è un'idea straordinaria e sacrosanta per riappropriarci dell'importanza del calcio italiano che è in sofferenza da qualche anno. Dove vai Pierluigi? Dove? Bangkok. Bangkok? No, Bangkok non c'è però, adesso si può fare qualcosa a Ponza. A Ponza non credo Massimo perché è poco orientale, fa poco mercato, però è una bella idea adesso, al di là delle battute. È un'idea meravigliosa, partorita dalla mente di chi vende i diritti della nostra Serie A, che non è De Laurentiis, in tutto il mondo. E quando ci chiacchieri ti racconta delle difficoltà immense perché siamo poco aperti. Pardo non piace l'idea. Sono un grande estimatore di Silva, nel senso che per quel poco che ho conosciuto mi sembra un ragazzo molto capace, che è partito, del quale si parla poco, insomma sembra sempre che queste organizzazioni che vendono i diritti televisivi siano delle strane associazioni a delinquere, la Spectre, qualcosa del genere. Sembra che se c'è una cosa che funziona nel calcio italiano, una delle pochissime cose che funziona è proprio la vendita dei diritti, il fatto che queste società riescono a fare i contratti migliori rispetto al passato nonostante la crisi. E poi nello specifico Silva è un'azienda italiana che commercializza e diffonde i diritti di tantissimi sport, non solo del calcio, non solo del calcio italiano, in tutto il mondo. Se non sbaglio hanno la Formula 1 in tutto il mondo, l'NBA in tutto, quindi è un italiano che pratica una sorta di monopolio, comunque di posizione molto forte nei diritti di tutto il mondo, per cui insomma l'idea al di fuori dello scherzo, chiedo anche agli ascoltatori 800 24 00 24, dove parliamo di altro, di tutt'altro, ma l'idea non è così bizzarra, eh. Cioè l'NBA sono anni che gioca alcune partite anche durante la stagione a Londra, a Parigi, eccetera eccetera. È vero che loro ne fanno 82 solo di stagione regolare, 82. Da noi è più concentrato, c'è più la sacralità di quell'evento. Però secondo me il tema è un altro. Il primo è: abbiamo bisogno di visibilità, la risposta è ovvia ed è scontata e abbiamo disperato bisogno di visibilità. La seconda è: l'anno prossimo la stagione parte un po' prima e io sono sicuro che la discussione è: si comincia troppo attaccati a Ferragosto, la gente in ferie, come fa ad andare allo stadio, e allora approfittiamone, portiamo questa giornata fuori dall'Italia e facciamo comunque il bene del nostro campionato, del nostro calcio, e la gente ricomincerà ad andare negli stadi in Italia come già accaduto in tutti questi anni l'ultima domenica di agosto. Poi magari vedremo degli stadi pieni, inedito assoluto per il nostro campionato. Ma ti piace o no? Non ho capito, Pierluigi. Mi piace. Sono a favore, perché guarda, odio per la cosa, però mi dà fastidio tutto. Io penso di essere piuttosto romantico, adesso vi do questa notizia esplosiva, questa breaking news, però mi sta sulle scatole tutto il passatismo, no? Di quelli che dicono: ah no, il problema è il calcio italiano, calcio si gioca la domenica alle 2:30. Lo passatismo non è il problema, è il calcio italiano. Il problema è il calcio italiano è la violenza, gli stadi che fanno schifo, le maglie tarocche del merchandising che ci impediscono di fare soldi come gli altri club in giro per il mondo e quindi di essere competitivi. Questi sono i problemi del calcio italiano. Gli stadi, ripeto, lo ribadisco, orrendi, senza le tettoie, non soltanto senza le sale VIP, ma senza proprio le cose banali, senza i parcheggi. Sì. Questi sono i problemi del nostro calcio. Non è certamente lo spezzatino o il fatto di dare all'appassionato la possibilità di vedere più partite durante un weekend. È chiaro, questa idea è abbastanza estrema, però forse è quello che ci vuole. Poi l'inaccessibilità agli stadi che fanno schifo, l'inaccessibilità ai pollai. Noi abbiamo ancora un po' di brand, sì. Parlo come quelli del marketing, abbiamo ancora un po' di immagine nei nostri grandi club. Cerchiamo di vendercela bene, ecco, cerchiamo di diffonderla bene e soprattutto assieme a queste iniziative cerchiamo di non fare autogol. Sì. Tutti gli autogol, le curve chiuse, le violenze, tutte queste robe qui ci indeboliscono agli occhi del mondo, perché ormai è una gara di competizione. Oggi Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio sono in competizione tra loro stesse da un punto di vista di classifica, di campionato, ma sono in competizione a livello mondiale dal punto di vista... È una parola bruttissima, business è una parola bruttissima, ma adesso parliamo di calcio. Non è una bestemmia, cioè non è, non è una bestemmia, però capisco dire. Che insomma, no. Il problema forse è proprio quello, che sembra bestemmiare in chiesa quando si parla di business a proposito del calcio. Gli altri fanno business, hanno gli stadi, hanno e sono pieni, hanno molti meno problemi di noi e non mica si vergognano nel dire è un affare colossale, un giro di soldi colossale e dunque bisogna chiamare anche le cose col loro nome. Però prima del traffico, De Laurentiis ha avuto anche un'altra idea, non so se questa ti piace. Poiché sto cercando di convincere, convertire i pizzaioli napoletani a fare la pizza un po' diversa, perché non sono convinto di alcune cose, io sono convinto di altre, ma alla fine forse ci riuscirò. Adesso sto cercando di esportare un modello di pizza completamente diciamo travolgente in altri paesi del mondo. Partendo da che cosa? Da un prodotto organico che non deve crescere nello stomaco della gente di notte. E questa come la mettiamo? Questa è un po' più inquietante. Questa è un po' più inquietante. Come la mettiamo questa? Il gastronauta. De Laurentiis che rifà la pizza. Subito chiamare subito. Chiamare subito immediatamente il gastronauta. E chiedere lumi su. Se sa qualcosa, se ha qualche dritta, qualche indiscrezione, se ha rubato qualche segreto a De Laurentiis. Presidente esuberante, è un uomo di enorme carisma, qualche volta alcune sue uscite possono risultare poco chiare, poco semplici, possono anche mettere in imbarazzo qualcuno, penso per esempio a quello che è successo l'altro giorno, che dal punto di vista dello spogliatoio, se fosse stato detto soltanto all'interno dello spogliatoio, era un discorso giustissimo, un discorso che piace molto ai tifosi, no? Impegno, rispetto alla maglia, certo. Mi chiedo, cioè, uno sente quel discorso lì e pensa che i giocatori del Napoli facciano serata tutti i giorni. Ma guarda, stai lì che questo lo scopriamo, magari non troviamo il gastronauta, ma qualcuno che ci spiega le notti brave dei giocatori del Napoli, l'abbiamo trovato. Traffico. Andrei da Nando San Vito. Convocati. Poiché Napoli è una città estremamente rapace sul piano della bellezza, piena di distrazioni, e poiché questi sono ragazzi, perché noi scambiamo molto spesso il professionismo con un problema di anagrafico. Io sono padre e ho dei figli e sono stato figlio e anche io a 25 anni, a 30 anni facevo delle cose che probabilmente oggi non farei e mi sono divertito a farle. Perché mi tiro è scomodo in una città come questa, io mi auguro che tutto ciò serva come una sferzata nell'orgoglio di chi orgoglio ne ha, perché poi io devo dire che hanno giocato sempre dando il massimo, soprattutto in queste ultime due partite, a onor del vero. Però abbiamo fatto anche delle partite di uno squallore non da Napoli. Ha ragione su tutta la linea. Ma quale? Quello di oggi o quello dell'altra sera? Quello di oggi, quello dell'altra sera. E bisogna capire. Cioè, sono professionisti. Non si comportano professionisti, dice Laurentiis. Ok, lo possiamo capire. Però, se non lo capiscono loro, tutti dentro, al ritiro. Pierluigi? Pierluigi? Che sta a fare? Ho messo auricolare. Vabbè. No, l'ho sentito tutto il discorso, a parte che ormai l'ho imparato a memoria lo sfogo dell'altra sera. Io penso che, insomma, come dicevo, De Laurentiis è un uomo veramente di grande carisma. E da questo punto di vista è uno di quei personaggi che possono motivare e che possono anche, secondo me, condizionare i comportamenti dell'ambiente. E se lui ha fatto questo sfogo, sicuramente l'ha fatto perché voleva ottenere un risultato, e magari lo otterrà pure. Certo. Avrà avuto le sue ragioni. Alla fine di rimane soltanto il dubbio alla fine di tutto questo discorso sul comportamento complessivo dei giocatori. Cioè, tutto quel lungo discorso sono stato figlio, eccetera, eccetera. Appunto, non a casa abbiamo messo la febbre del sabato sera. Può essere travisato, cioè può venire in mente i tifosi del Napoli, sospetto che veramente i giocatori facciano una bella vita e basta. Senso travisato, Piera? A me sembrava tutto abbastanza intelligibile, tant'è vero che oggi ha detto, e di tutte le cose che ha detto adesso, a parte la questione della pizza che è inquietante, di tutte le cose che ha detto, belle, intelligenti, anche innovative, De Laurentiis, la parte debole è quella lì, quando dice: ma chi è che vi ha detto che il ritiro era punitivo? No, adesso va bene tutto, però abbiamo le orecchie per sentire, non è che ci fosse da interpretare. Chiediamo a Bibi Velluzzi, insomma, che ci racconta tutto. Bibi Velluzzi, la Gazzetta dello Sport. Ciao Bibi. Buongiorno a voi, buongiorno a Pierluigi. Allora, anche lui aveva capito così, no? Poi lui. Anche tu hai capito così, no? Sì. Ho sentito le parole di De Laurentiis, che ovviamente sono molto divertenti, molto colorite, e il personaggio ci regala ogni volta veramente delle soddisfazioni incredibili. Io sono quello che l'ha seguito col motorino anni fa e resta per me una delle pagine più belle della mia carriera. Cioè, i calendari senza De Laurentiis hanno ormai perso significato, infatti, dopo l'episodio del motorino. Ma detto questo, comunque sì, io credo che i presidenti abbiano ragione a prendersela con i giocatori che lautamente pagano. Anche l'Udinese, ricordiamo che è in ritiro da mercoledì sera e lo ha fatto senza passare da casa, cioè tornando da Parma, facendo peraltro 5 ore di pullman che i giocatori non hanno molto gradito. Però io credo che oggi, cioè, evidenziare l'uscita nei locali, l'andata in discoteca, sia diventato forse per certi versi eccessivo. Chiaro, se il Napoli ha usato un pugno di questo tipo vuol dire che ha conoscenza di qualche episodio particolarmente fastidioso, io credo. Però oggi, quando anche spesso mi si parla di gossip, e spessissimo anche al mio giornale si fanno dei tentativi che io spesso respingo sul gossip, io credo che invece sia cambiata la cultura, purtroppo in peggio, perché i giocatori vivono di social, vivono di Instagram, stanno molto a casa e quindi spesso rischiano di fare peggio vivendo in questa teorica solitudine che andando una sera in discoteca. Cioè, la discoteca è quella che crea l'allarme, che crea il fastidio perché sono riconoscibili, ma i giocatori, credetemi, che fanno molto peggio stando in casa propria che forse andando una sera all'Hollywood, se vogliamo usare il nome epico, certo, dei locali. Tu dici, ecco, fa più danni Icardi fa più danni in 5 minuti con un telefono in mano che in 10 notti all'Hollywood. Magari Icardi meno, perché si è messo in una condizione diversa. L'ultima volta che ho visto Icardi l'ho visto all'inaugurazione di Gardaland, quindi con i bambini era il giorno di riposo, il 28 di marzo. No, però, tornando al discorso del Napoli, secondo me, collegandomi a quello che diceva Billy, si fa fatica a capire che cosa sia successo, però ovviamente nel momento nel quale il presidente ha uno sfogo di questo tipo, esatto, infatti io penso che ci sia qualcosa dietro. Io non credo, non mi risulta, tra l'altro devo dirti la verità, io penso che il presidente sia stato molto lucido dell'analisi, nel senso che il Napoli ha fatto una serie di partite veramente orribili, e penso a Palermo, Torino, Verona, Atalanta, e nelle ultime due partite sicuramente non è il Napoli sognato dai tifosi e nemmeno dal presidente, però secondo me ha pagato forse anche oltre i demeriti, nel senso che è un passo avanti, c'è stato l'Olimpico Roma nel secondo tempo, sicuramente c'è stato un grande De Santis, un grande Manolas, e la partita contro la Lazio è stata una partita equilibrata, con la Lazio che è più squadra in questo momento, che ha trovato il gol a 10 dalla fine. Quindi non stiamo parlando, secondo me, delle pagine peggiori della stagione del Napoli, che sono state prima e che però rischiano di compromettere completamente il cammino. Io credo che lo scopo di De Laurentiis sia giustificabile soprattutto in relazione al campionato, perché in campionato che per ora c'è la delusione del Napoli, cioè il Napoli in questo momento è in una situazione che sicuramente non è quella che ci si aspettava, però è in un'ottima situazione in Europa League e io credo che abbia le potenzialità per farlo. Io credo che il Napoli debba preoccuparsi più che altro dello stato d'animo dei giocatori, essendo una squadra molto internazionale e quindi poco amalgamata come gruppo. Secondo me ho l'impressione che questa internazionalità, che da un lato è molto importante quando giochi le coppe europee, la paghi però a livello di spirito, di gruppo, di compattezza, e penso che i giocatori del Napoli, come forse abbiamo riportato peraltro anche oggi nei giornali, abbiano molti desiderio di cambiare aria, e ci sono attirati da altri tipi di situazioni, siccome sì. Giocatori come Calleon, come Martens, come Higuain, come lo stesso Inler, che andrà via sicuro, hanno comunque un mercato internazionale e sanno di poter andare da altre parti, e Napoli è una piazza dove, a parte Hamsik, non vedo moltissima gente di quel tipo che si lega in un modo viscerale, sì. Quindi il discorso è più ampio. C'è anche un punto sull'allenatore, secondo me, perché anche se l'allenatore non viene tirato in mezzo dal lungo discorso di De Laurentiis dell'altra sera in sala conferenza stampa, però insomma Benitez è quello che ha dato il giorno di riposo prima della partita contro Roma, legittimamente, cioè, ha fatto una scelta che mi sembra una scelta diversa rispetto a quella della clausura e del ritiro adottato adesso dal presidente. Mi sembra che sia un atto un po' di forza da parte di un dirigente, da parte del proprietario, che insomma legittimamente vuole un certo tipo di risultato. Qualcuno ci ha letto anche una sorta di rottura tacita ormai del rapporto con Benitez, perché Benitez sappiamo tutti che adotta questo sistema perché comunque ha la famiglia che vive a Liverpool, quindi ogni tanto stacca anche lui, e quindi probabilmente dà questo tipo di riposi che per i giocatori sono particolarmente graditi anche in virtù di questo. Comunque aggiungo una cosa, sono d'accordo anch'io con Pierluigi sulla partita con la Lazio. Io ho visto la Lazio sabato a Cagliari ed è una squadra che, pur giocando veramente al minimo, al Cagliari in certe situazioni quasi nascondeva il pallone, quindi non si può rimproverare al Napoli l'uscita in semifinale di Coppa Italia perdendo per 1-0, insomma, dove poi peraltro ha sfiorato il pareggio con l'azione di Insigne nel finale, quindi non è che mandi in ritiro punitivo appunto perché non hai raggiunto la semifinale, la finale di Coppa Italia. Lì o c'è qualcosa di reale e realmente fastidioso che gli è stata riferita e di cui per il momento non si ha conoscenza, oppure, come dicevate voi, c'è anche un tacito silenzioso attacco a Benitez, il segno di un rapporto che si è logorato. Sapeva sarebbe finito così, perché ormai sono mesi che si dice e si sa che Benitez non rimarrà sulla panchina del Napoli. Dovremmo chiamare Cometti, che era detto stampa del Verona, che sì. Bravo giornalista, ex compagno di redazione di Bibi, che è il miglior imitatore sulla faccia della terra, credo veramente all'emozione, sono lui e Crozza, e fa un'imitazione di Bibi Velluto straordinaria. È vero, non riusciamo a parlare oggi, però allora noi ti diciamo che non c'è Bibi Velluzzi collegato. Non c'è Bibi Velluzzi, è quello finto, perché quello vero ci avrebbe fatto l'elenco dei giocatori del Napoli che passano le notti in discoteca. Il Bibi Velluzzi vero, no, scherzo, no, ma io vi ripeto, la discoteca non è più trendy, non funziona più. Anche la musica era anni 80, di che stiamo parlando? È un retaggio del passato, è un che su Instagram mette il termometro, mette la foto col termometro. Dove siamo? Ma questa è l'ultima frontiera. Io ieri ho fatto un tweet: è l'ultima frontiera per gli studenti, per gli scolari. Sì. Perché una volta c'era la giustificazione, adesso in questa epoca tecnologica si può mandare un messaggio, un WhatsApp alla maestra o alla professoressa col termometro. Col termometro, certo. Poi c'è anche il vecchio metodo della lampadina. Che sfido chiunque. Non il neon, perché è luce fredda. Tutti hanno usato, anche Bibi Velluzzi. L'ha usato il metodo della lampadina una volta nella vita, sì, confessiamolo. Una volta ho usato anche il neone, e lì ho imparato che è luce fredda. Dicevi? io quando non volevo andare a scuola qualche volta lo dicevo, avevo sempre il mal di pancia, quello vero, ma non quello dei giocatori, soprattutto la mattina. Ciao Vivi, grazie. Ciao, grazie a voi. Saluti a tutti. Ciao. Sono veramente tutti strumenti del passato, sono arnesi antichi, le discoteche, ma anche i ritiri, ragazzi. Posso dire però una cosa? Che De Laurentiis è arrivato un po' lungo come tempi. Cioè, noi abbiamo passato almeno un paio di mesi a dire che non parlava, poi a stagione compromessa, perché noi speriamo tutti che il Napoli vinca l'Europa League e facciamo il tifo. Certo. Ma la verità è che questa è una stagione fallimentare, compromessa. Il Napoli fuori dalle prime tre, che significa fuori dalla Champions, è qualcosa che tu non potevi prevedere, nemmeno pronosticare in un incubo all'inizio della stagione. Poi magari ci rientra dalla porta dell'Europa League, però insomma queste sono cose che vanno dette. E De Laurentiis si sveglia dopo due mesi in cui il Napoli ha buttato via tutto. La strada delle coppe è una strada sempre stretta, nel senso che è una strada sempre appesa a... all'area, alle stelle, a tante cose. Può succedere fino all'ultima partita della stagione, pensa non lo so, al Bayern in finale contro il Chelsea, al Bayer Leverkusen di Top Müller che buttò via tutto una decina d'anni fa, al Benfica che perse la finale proprio contro Benitez al Chelsea due anni fa e che era in testa al campionato fino al poi che c'era la fine, perse in prima settimana, perse campionato, Coppa Nazionale ed Europa League. Quindi è chiaro che la strada lì è molto stretta, però insomma bisogna fare un atto di fede. Il Napoli secondo me come qualità può ancora regalare degli sprazzi eccezionali. Adesso c'è questa sfida col Wolfsburg complicatissima, perché stavolta il Napoli non è stato neanche fortunato nel sorteggio dopo l'Europa League fin qui morbida, e lì bisognerà vedere insomma, però è chiaro che adesso sei appeso a un filo, però poi se dovesse per caso succedere quella cosa meravigliosa, allora è chiaro che la stagione cambia colore. Ciò detto, io credo che l'addio Benitez sia ormai se non ufficiale, almeno ufficioso nei fatti. Ci fermiamo per la borsa. Grande mischia, Flipper impazzito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Questa puntata eccezionale, piena di ospiti, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo c'è, un attimo che lo ripeschiamo. Ci ha raggiunto anche Marco Bellinazzo per un appello accorato del massimo esperto italiano in movimenti di club e di pizza e di tifoso del Napoli. Beh, non so in quale ordine facciamo cominciare. Ho notato l'appello. Peraltro un grande disappunto che in questa trasmissione non si parla mai di Napoli né di De Laurentiis. Ah, ti ci metti anche tu. Non parlate mai di... Lo noto. No, ma sai Marco, noi purtroppo parliamo meno del calcio provinciale, perché sai, per questioni allora, di bacini, d'utenza, certo, quindi certo. Il Napoli non ci sta dentro. Il calcio minore non ci interessa. No, però fai l'appello che hai fatto prima a microfoni spenti, quello ci interessa, sull'idea di De Laurentiis di fare la pizza 3.0. No, dicevo, almeno 3.0, quella che non fermenta di notte. Lasciateci stare la pizza, almeno quella non tocchiamola, cioè è una tradizione, una delle poche che è rimasta a Napoli. Poi bisogna andare anche nei posti giusti, insomma, anche nei rioni storici ormai c'è il culto della pizza come prodotto global e global. Faccio uno spot, cioè non riesce a dire, a parlare della pizza senza metterci dentro termini, no? E quindi no, ed è assolutamente una verità, con tanti turisti che arrivano anche nei quartieri popolari a mangiare la pizza adesso, quindi c'è un grande revival della pizza. Portano ricavi, fatturato. Che non vanno a Napoli, questo è l'unico problema. Ma se ci fosse, uno stadio nuovo con delle strutture attorno e delle pizzerie a marchio Napoli, quei ricavi sarebbero del Napoli. Ci arriviamo. E si torna sempre lì. E torniamo sempre lì. È tornato Parma. In effetti, scusa, mi è venuto in mente adesso questa cosa, questa piccola idea di business. Così mi è venuta in mente che abbiamo visto in tutti questi anni, magari De Laurentiis non ha interesse, una diversificazione che non gli piace, ma abbiamo visto in tutti questi anni una serie di prodotti napoletani e di catene napoletane. E Napoli vorrebbe anche. Potrebbe anche decidere di fare un suo franchising a questo punto di vista. Va bene, stavo dire, ragionando a voce alta. Invece un mio amico napoletano, un comune tifoso, non è Uriemma, insomma, mi ha giustamente fatto notare in questi minuti della fascia pubblicitaria che poi alla fine a Napoli c'è grande controllo, nel senso che Napoli è una città calda, esuberante, dove le cose ovviamente si sanno subito. Sono certo. Gli stessi tifosi i primi controllori di un'eventuale vita notturna di Higuain piuttosto che di Hamsik. Quindi, insomma, questo è un ulteriore, potrebbe essere un ulteriore segnale del fatto che non è successo tutto quello che in qualche modo tutto quello che De Laurentiis ha detto, ripeto Pier, magari c'è stato qualche ritardo, ha detto lui, no? Diciamo che noi abbiamo mille difetti, però qui era proprio tutto chiaro, capito, non è una roba che dovevi leggere, poi ci ha ripensato, ne prendiamo. Io su Hamsik metterei la mano sul fuoco, che insomma non credo abbia lui problematiche, però in passato ricordo che Ezechiel Lavezzi di frequentazioni non proprio limpide ne avesse, anche uno dei motivi perché è andato via è stato legato al tipo di frequentazioni che aveva, per non parlare del Pibe d'Oro, insomma. Che frequentava club e faceva la storia in campo, per poi alla fine è tutto. Io pensavo anche al discorso di Allegri l'altro giorno, ha dato tre giorni a Buffon, per dirti, cioè alla fine poi non è che per forza se ti alleni di più e stai chiuso in casa vinci, e se invece vai qualche sera in giro perdi, è chiaro, che c'è un limite, no? C'è una... Però la gestione delle fasi di carico e scarico sul giocatore, dell'umore, dell'aspetto psicologico è importantissimo, quindi per esempio Allegri secondo me su questa cosa punta molto, il famoso discorso che ha fatto due settimane fa dopo la partita contro il Genoa, io sono così, sono una persona morbida, non sono un martello, questo, e i risultati stanno arrivando comunque, no? Anche se nessuno va a controllare se Marchisio si mangia una pizza, certo, quindi poi i giocatori lo sanno, in questo De Laurentiis, la parte finale del discorso nella quale facevo un riferimento alla professionalità dei calciatori, che era secondo me il punto più importante, cioè poi alla fine i calciatori, soprattutto se vanno bene, fanno un regalo a se stessi, oltre che alla maglia, alla società, a tutto. Sì, resta quel vecchio arnese desueto che è il ritiro, che mi ricorda un po' lo sciopero come strumento di lotta non più efficace. Dopodiché, se posso chiudere il discorso sul Napoli con una notazione un po' seria, sarò noioso, però il vero problema è che attorno a una società, attorno a un gruppo di giocatori, ci deve essere un gruppo di dirigenti che sappiano gestire quel gruppo, ci deve essere una struttura societaria che possa portare il club a un fatturato stabile, alto ed elevato, per competere e non dipendere da una partita o due sbagliate. Ci deve essere insomma tutto quello che De Laurentiis non ha voluto o potuto costruire in questi anni a Napoli, dove non esiste una società a parte De Laurentiis. Io ho grande stima del presidente, ne ho sempre lodato, diciamo, un certo modo di gestire la società, però è evidente che questo modo non va bene per crescere e per dare al Napoli altri 10 anni di prospettiva positiva e di una crescita ancora più elevata, ritmi più elevati. Di questo passo, non andando in Champions nemmeno l'anno prossimo, tutto quello che di buono è stato costruito quest'anno, insomma... Beh, adesso vediamo, c'è la porta più stretta, ma anche la più affascinante. Comunque oggi De Laurentiis ha detto che non si possono sempre spendere 98 milioni come nell'ultima estate, il conto che ha fatto lui, anche perché deve rimodernare San Paolo, e quindi fra i mille discorsi oggi De Laurentiis ne ha dati tanti di messaggi, secondo me, anche alla piazza, e non tutti piacevoli per i tifosi, però abbiamo tempo poi per vedere anche che cosa succede. Fammi parlare con questi due ascoltatori che sono in linea da un secolo e li ringrazio. Massimo Bergamo, buongiorno. Buongiorno gente, buongiorno Pardo. Io volevo solamente, secondo, non sono molto d'accordo sul luogo comune che ad agosto la gente non vada allo stadio perché al mare, fossimo tutti al mare ultimamente. Uh-huh. Penso che sia più difficile far pieno allo stadio al 7 di novembre alle 20:30 a Milano, piuttosto che verso fine agosto, verso prima di agosto. Ci sono anche le prove, infatti sì, ma è anche perché è la prima giornata. Per carità, se la prima giornata fosse il 20 novembre, il pieno lo faresti il 20 novembre. Sì, però comunque è un periodo in cui, insomma, gli stadi c'è voglia di calcio. Sì, però se noi non ci decidiamo a mollare qualcosa, allora torniamo tranquillamente al calcio alle 14:30 della domenica, però poi non lamentiamoci che l'Inghilterra vende i diritti per 1 miliardo all'estero, che è quello che noi vendiamo i diritti in Italia. Cioè, ma non scherzo. scherziamo. O si fa qualche sacrificio, poi può non piacere l'idea di 10 partite all'estero, si può fare tutto quello che si vuole, però l'idea in sé non è brutta. No, assolutamente. Ma Marinazzo, come la vedi? Il concetto è giusto, tant'è vero che in questi anni le squadre hanno litigato per non andare a giocare a Pechino. Abbiamo fatto anche delle belle figure, quindi, no? Con contratti firmati. Il concetto mi sembra molto giusto, l'applicazione poi la si può studiare. L'idea è venuta da Riccardo Silva, che è uno che se ne intende, che sa quanto è difficile vendere il calcio italiano all'estero, tanto è vero che lui riesce a venderlo inserendolo nei pacchetti dove c'è la Premier e le altre leghe, così riesce a venderlo bene a noi, e quindi tutto ciò che ci permette di aumentare la visibilità internazionale va senz'altro nella direzione giusta. Carlo, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un tifoso interista. Il primo abbonamento l'ho fatto nella stagione 92-93. Sì. E questo che finirà sarà il mio ultimo abbonamento. Perché? Perché spendere 200 e passa euro per delle partite a scatola chiusa, che non si sa quando si giocheranno, a che giorno e a che ora, con degli impegni familiari e lavorativi, non mi sembra a caso. Quindi per questa ragione, per una ragione di difficoltà di fruizione, non per una ragione di prodotto? No, perché io ho fatto l'abbonamento all'Inter a stagioni ben peggiori di queste. Ah. Però cioè, se io prendo delle partite e voglio andare allo stadio, voglio sapere quando devo andare. Lo so, allora sarà davvero il suo ultimo abbonamento, perché questo non accadrà mai. Ma non sarà mai nemmeno abbonato al Real Madrid, al Barcellona o alla Premier League. Cioè, non fa, per carità, lui fa benissimo, se la cosa non riesce a conciliarla è bene che non spenda nemmeno quei 200 euro. Però non raccontiamoci che è un problema nostro. Cioè, i tifosi del Barcellona, del Real Madrid, del Manchester United, eccetera, hanno i calendari a tranche di 7, 8, 9 giornate come li abbiamo noi. Succede in Italia. Come succede noi. Il nostro problema era la responsabilità oggettiva. Scusa, non so, a bomba, ma non soltanto nel caso della Roma dell'altro giorno, anche nel caso dell'anno scorso. L'anno scorso ricorderete che ci sono state curve chiuse per episodi avvenuti in trasferta. Quindi tu pensa, dal punto di vista del diritto del consumatore, un abbonato a quel settore che non partecipa alla trasferta, e lo puoi scoprire in un minuto, che ci sono i biglietti nominativi, quindi lo sai benissimo in un minuto, che si vede privato di qualcosa che lui ha già pagato per colpa di altri. Sì, però non credo, Pier, che sia questo il problema, cioè la responsabilità questo, oggettiva. Tra l'altro vogliamo dire che Pallotta ha cancellato il ricorso della Roma, secondo me con un gesto coraggioso e coerente. Grande mosso di Pallotta. Che sarebbe bello facessero tutti i club che si trovano invischiati in queste situazioni. Vabbè ragazzi, sentiamo il traffico e poi il nostro amico Marco Berinazzo ci dice quando arriva Moratti all'Inter e qual è la direzione giusta della Via della Seta per il Milan. Queste due cose. Due cose semplicissime. Due cose insomma. Facili. Due domande facili. In due minuti. In due minuti. Strada. Tutti convocati. Tutti convocati. No, io devo dire che è sempre molto positivo. È chiaro che come tutti, probabilmente perché se uno ha un po' di sangue nelle vene, quando le cose non vanno bene, perdi o pareggi una partita contro il Parma, è chiaro che ci sta per un momento, un attimo, l'arrabbiatura, questo credo che sia umano e naturale, però devo dire che è sempre positivo con me, con la squadra, e pensa sempre che si possono vincere tante partite, quindi credo che questo sia molto buono per un presidente. Lui stava parlando di Moratti o di Toira? Lo so che sta parlando di Toira. Beh, Moratti credo che sia ben contento di mantenere la sua quota ancora per un po'. Non credo che abbia la minima intenzione di tornare a presiedere l'Inter. Si è parlato tanto di azionariato popolare VIP, più o meno VIP, di fondi anche qui cinesi, americani. Sono uscite alcune agenzie bellissime, io ne ho fatto un post sul mio blog, chi vuole andare a leggerselo può leggere, di questa finanza creativa, perché a un certo punto si metteva insieme come aspiranti acquirenti del Milan quattro gruppi cinesi, Huawei, Wanda e Alibaba, che insieme potrebbero comprarsi, insomma, Serie A, Serie B, Lega Pro, e già che ci sono anche Lega Dilettanti, e che starebbero facendo una colletta per trovare un miliardo, secondo questa agenzia. Tra l'altro, una cosa detta dal vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Cina, un certo signor Fu. Cioè, sarebbero tutti insieme? Tutti insieme. Ma sarebbero, sono soggetti differenti, no? Sono quattro gruppi differenti, quattro conglomerati che fatturano miliardi di euro all'anno e che, ripeto, messi insieme potrebbero comprarsi Serie A, Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, per cui non avrebbero alcun problema a sganciare un miliardo e comprarsi il Milan. Questo per dire di come si sta forse un po' esagerando nel raccontare di queste piste asiatiche per i club italiani. Per quanto riguarda il Milan, c'è una pista che voi sapete io batto da un po', che è quella dei Mister B di Touchball, con i soci anche cinesi e del fondo di Singapore, ma la maggior parte sono thailandesi, che sono tornati a incontrare anche questa settimana Berlusconi, stanno lavorando. La novità è che, viste tutte queste voci, è stata messa da parte l'ipotesi, diciamo, di un ingresso minoritario e poi di un progressivo aumento delle quote. Si sta parlando direttamente di una quota di maggioranza del club, che poi su altri tavoli Berlusconi, come è giusto che faccia chi vuole vendere un club, stia magari trattando con qualche altro gruppo cinese, ci può stare, ma la pista al momento più calda resta ancora quella che porta al broker, attenzione, Mr. B. E a chi sta dietro di lui. E comunque, Pierluigi, se ci fosse qualcosa che avanza, noi diamo l'Iban a quei signori lì cinesi. Sì, noi siamo sempre disponibili, non abbiamo problemi. Sì, facciamo anche delle promozioni. No, ma sai cosa? Quando io sento parlare di azionariato popolare, cioè tutte le volte sento parlare di azionariato popolare in qualunque sua forma, allora mi convinco definitivamente che una notizia è una cazzata. Beh, c'è da dire una cosa. Però se lo chiami crowdfunding suona meglio. Faccio notare questo, che popolare, ma quando mai lo vedrai in Italia a qualunque livello? Tre delle squadre più ricche al mondo hanno delle forme di... non so se chiamarlo azionariato popolare, in realtà sono delle forme associative, cioè parlo del Real, del Barcellona e del Bayern Monaco, che coinvolgono centinaia di migliaia di soci e che permettono a questi club, tra l'altro, di incassare dai 20 ai 40 milioni all'anno, che sono ricavi a tutti gli effetti per le regole del fair play finanziario. Quindi non sarebbe un'idea malsana. Il problema è che organizzare in Italia una forma di azionariato popolare legata a un club di calcio di qualunque sport è difficile. Forse servirebbero delle norme ad hoc, non c'è nulla che lo vieti, ma di fatto è molto complicato e i presidenti sono sempre stati gelosissimi, se non altro per tenere i bilanci, diciamo, ben conservati nei cassetti. Certo. Sì, e mi sembra che anche la moda che era nata con Juve, Roma e Lazio della quotazione in borsa, che comunque è una forma, ovviamente non ti rivolgi soltanto ai tuoi tifosi, ma ti rivolgi al mercato, però comunque è un mercato fatto anche di piccoli risparmiatori, di piccoli azionisti. No? Mi sembra che poi, non so se giustamente o no, forse Berinazzo ne sa qualcosa in più. Beh, questo, però poi alla fine non ha attecchito, perché altri esempi non sono arrivati. Basta fare credo due che conti, anche il valore delle azioni sia diminuito mediamente. C'è stata una grande moda della quotazione che è partita dall'Inghilterra intorno agli anni 90 e, diciamo, inizio anni 2000, quando appunto sono avvenute le quotazioni rispettivamente di Lazio, Roma e Juventus. Dopodiché il clima è cambiato, forse le modalità di queste quotazioni sono state sbagliate e di fatto, mentre c'erano a un certo punto in Europa quasi 40 squadre quotate, oggi siamo più o meno intorno alle 25, di cui, diciamo, 18 hanno rendimenti molto negativi. Ci sono però 7-8 squadre le cui azioni sono molto in rialzo, tra cui anche quelle della Lazio di Claudio Lotito. Sì, è vero, è vero. E fra l'altro la Juve, per chi è attento a queste questioni, è in rally, come dicono. C'è cresciuta molto nell'ultimo mese e mezzo, credo abbia aumentato il valore di un 40%. Le quotazioni sono sempre molto più basse rispetto agli anni scorsi, però, perché poi delle volte è abbastanza sorprendente, non c'è sempre una perfetta corrispondenza fra un risultato sportivo e un risultato economico, anche laddove ci dovrebbe essere. Cioè, è ovvio che dal punto di vista strettamente finanziario vincere il campionato o arrivare secondi cambia poco, ma che è poco romantico anche questo. La differenza invece tra andare in Champions League e non andarci ovviamente è gigantesca, perché significa avere accesso a tutta una serie di fondi e di premi che altrimenti non avresti. Quindi sì, non sempre c'è questa correlazione. No, sempre considerato assurdo il meccanismo per cui le quotazioni si alzano il lunedì qua, a seconda del risultato. Tra l'altro oggi la Lega assegna i diritti della Coppa Italia, della Supercoppa. Vedremo se ci sarà questo incremento. Coppa Italia e Supercoppa Italia. Supercoppa che si gioca l'8 agosto a Pechino, per cui potremmo fare veramente il mese di agosto in giro per il mondo. Sì, qualsiasi... Si apre la via della seta per tutti, mica solo per il Milan, anche per noi. A quel punto Juve e Lazio facciamole giocare in Cina, insomma. È un discorso ovviamente di semplicità logistica. Sì, infatti. Il problema è che non è un problema secondario. Le grandi squadre italiane finalmente hanno capito che d'estate, oltre ai ritiri, devono fare tournée all'estero per valorizzare il marchio, e quindi magari hanno programmato tournée in paesi che sono un po' distanti dalla Cina, come accadde nel caso della Juventus per la Supercoppa, certo, tanto discussa. Sarebbe il caso magari di coordinare, e questo dovrebbe farlo la Lega, queste tournée con partite, con la prima partita di campionato, insomma, potrebbe essere un aiuto. Cioè si fanno le partite, le squadre giocano dove vanno a fare le tournée, quindi fanno delle partite con delle squadre locali e poi fanno la prima partita di campionato, insomma. Per ottimizzare secondo me il messaggio che va dato è che può essere una buona idea, poi vediamo se è fattibile, perché in realtà poi leggo anche sui social che in questo momento ci sono tanti che ironizzano e tanti tifosi che sono arrabbiati, cioè lo ritengono uno schiaffo alla passione da stadio. Beh, guarda, in Bundesliga era nata l'idea di giocare alcune partite fuori, e la Lega tedesca ha vietato questo per rispetto ai tifosi. E la stessa idea, per esempio, stava nascendo in Premier ed ha prevalso questa linea. Il problema è che loro sono pieni di soldi, si possono anche permettere. Il giorno in cui Bundesliga e Premier avranno problemi di visibilità, andranno fuori in 5 minuti, credo. Sì, esattamente. Devo salutare Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao. Ci sentiamo domenica. E sarà, lo possiamo dire, domenica sarà una puntata straordinaria. Sì. Pier? Straordinaria. Eccezionale. No, ma particolarmente domenica. Quindi 17-19. Particolarmente. Ciao Pier, grazie. Ciao Pier. Io ho 2 minuti per far dire a Marco Berinazzo come fa Toira a comprare Romero, Luis Felipe, Touré, Pedro, Dybala e Lucas Leiva. 102 milioni. Intanto ha prestato, mi sembra a questo punto acquisito, altri 60 milioni all'Inter, poi devo scoprire a quale tasso di interesse e il prestito obbligazionario non ha trovato. Cioè lui ha prestati invece all'Inter? Sì, i 60 milioni sono stati prestati, come i 22 dello scorso anno, e non è riuscito ancora a rifinanziare il precedente rifinanziamento fatto con Goldman Sachs, per cui non so esattamente dove andrà a prendere questi soldi. È chiaro che ci sono però in giro tanti giocatori che l'Inter ha in prestito, che può valorizzare. Ci possano essere delle cessioni, magari delle scelte tecniche più oculate fatte da Mancini o da chi per lui siederà sulla panchina dell'Inter l'anno prossimo. E quindi diciamo sarà un mercato in cui prevalentemente l'Inter dovrà prima vendere e poi acquistare. L'ultima notazione devia un po' dal discorso dell'Inter, perché questa è bellissima, sul caso Parma. Sì. Ieri i curatori fallimentari hanno scoperto che il brand del Parma è ancora della società, e tu mi dirai quale notizia è questa. Beh, nel 2013 in realtà nel bilancio del Parma c'era scritto che il brand era stato ceduto a una controllata con una plusvalenza di 22 milioni, quindi non solo quei 22 milioni non erano mai entrati nelle casse del Parma, ma il brand non era mai uscito, quindi un artificio contabile alla Totò e Peppino, insomma, alla Totò truffa, che mi però sembra... loro gliel'hanno dato, poi era tarocco, gliel'hanno tornato indietro. Sì, sarà successo qualcosa del genere, insomma. Intanto è una buona notizia per il Parma, che almeno può venderlo all'asta e qualcuno se lo compra. Adesso vediamo con Lecchio, che è l'altro nodo, l'altro asset che tecnicamente è in mano a Manenti. Marco, grazie. Grazie a voi. Alla prossima, Marco Berinazzo. Giovanni, ti fermi tu? Certo che mi fermo. Perfetto, allora sentiamo insieme il GR e poi torniamo insieme. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua, primo tempo. Tutti convocati. Ecco che torniamo, sempre con me Giovanni Capuano, insieme fino alle 15:28 più o meno. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Raffaele da Bologna è un ascoltatore che abbiamo convocato. Buongiorno. Buongiorno, allora io volevo dire una cosa su Benitez. Allora, io vorrei capire una cosa, ma Benitez ne capirà di calcio perché è un maestro del calcio, però io dico, non vedere che il Napoli gioca in 10 contro 11 con la Lazio è assurdo, perché noi giocavamo in 10, anzi 9 e mezza, perché Gulam è andato a metà, ma Gargano l'avete visto voi? Io non l'ho mica visto. No, a me al di là del io ho visto che Gargano tutte le volte che toccava palla lo la regalava la Lazio, non ha mai affondato, aveva sempre paura di andare avanti e tutte le volte che toccava palla la perdeva. Cioè, il suo signor Benitez, io non lo so, non so se è capace di fare la squadra, di fare i turnover, io non lo so. Abbiamo perso 3-4 partite perché lui non è stato all'altezza, ha lasciato alcune volte Higuain in panchina, che è una cosa assurda lasciare Higuain in panchina. Questo concordo, perché Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Messi eccetera non escono dal campo mai, nemmeno in amichevole, e salvo squalifica, che ormai Ibra è pluricondannato a più squalifiche di un ergastolano, gli ha dato 4 giornate. Sì, poi lui va a blocchi di 4 giornate, blocchi, meno, evidentemente non si spreca per meno, no? No, io non starei, Giovanni, a farne la questione di Gulam o di Gargano. Secondo me il discorso complessivo, non è fare neanche il ragionamento di una singola partita, ma dell'ultimo ciclo. Benitez ha perso la maniglia sul Napoli, e il Napoli mi sembra una squadra che si è completamente sciolta. Sì, poi soprattutto Benitez in 2 anni, oramai sono praticamente 2 anni, non ha mai corretto i difetti strutturali di questo Napoli, al punto da far venire il sospetto che siano in realtà da lui considerate virtù. Quindi il Napoli è esattamente quello dell'anno scorso, una meravigliosa squadra spezzata in due con una fase offensiva che però non segna più, che probabilmente vale, sì, però quello può anche essere un momento di passaggio, è molto legato a Higuain, ma se tu guardi tutto il racconto di questa stagione, il racconto numerico, il Napoli ha avuto dei momenti in cui Higuain ha fatto 7-8 gol in 5-6 partite consecutive e momenti, lunghe pause di 5-6 partite in cui Higuain non ha segnato o ha segnato pochissimo, e se tu sovrapponi i risultati della squadra più o meno troverai un'onda coerente con l'andamento di Higuain. Certo, detto questo, il problema del Napoli non è in fase offensiva, il problema del Napoli è che è una squadra che da 2 anni incassa mediamente più di un gol a partita, e in queste condizioni è difficile essere competitivo ad alto livello. Sicuramente, soprattutto se Higuain appunto ne fa 1 in 9 partite, in 8 perché non è stato in panchina, e la squadra ne ha segnato 1 nelle ultime 5, quindi se prendi gol e non ne fai, è abbastanza normale che tu possa perdere. Luca Padova, buongiorno. Buongiorno, Dica. Grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Praticamente, intanto un'affermazione, io sarei contrario ad andare a giocare all'estero, perché? Anche perché sarebbe una scusa per il presidente Piagnoni, se quello che gioca a Giacarta o quello che gioca a New York, ma io sono arrivato 2 ore prima, ma sono arrivato 2 ore più tardi. Però possiamo crescere tutti, No, sì. Si può migliorare, si può fare meglio. I nostri presidenti sono fatti così. Ma volevo chiedervi una cosa, no? Sempre riguardo ai nostri presidenti. In Italia, a Torino, si sono fatti lo stadio. Su 20 squadre, 18 non hanno lo stadio, uno se lo sta facendo, che è a Udine, sì, e l'altro che è praticamente pronto, quello di Udine, e l'altro è Sassuolo. È il più furbo dei 20 presidenti. Perché se i soliti presidenti Piagnoni aspettano la manna dal cielo che gli diano questa legge sugli stadi, che non so nemmeno cosa comporta questa legge sugli stadi, volevo... Grazie. Non ho capito la fine. Mi sono perso la fine. Io credo che il più furbo sia chi lo stadio sarebbe fatto per tempo, in questo caso diciamo la Juventus e l'Udinese, e mi pare che il salto di qualità a livello di noi, insomma, non è bello parlare sempre di ricavi, soldi, però è tutto evidente, giustifichi il Sassuolo, credo, in maniera assoluta questa scelta, tant'è vero che la sta facendo la Roma. Prova a farla anche il Milan, l'Inter andrà su San Siro, ma non sarà probabilmente la stessa cosa, e quindi quello è un problema, è un ritardo che noi ci portiamo dietro e che purtroppo non colmeremo nell'arco di pochi anni, mentre in Germania già stanno scrivendo le regole e il piano economico per gli stadi di terza generazione. Noi siamo fermi a quella di prima generazione. Allora, volevo, domenica parliamo un po' di motori, no? cioè al di là della puntata eccezionale, abbiamo la Ferrari al mattino. Abbiamo la Ferrari che avrà vinto il secondo Gran Premio della stagione. Che avrà vinto il secondo Gran Premio della stagione con Raikkonen, però questa volta. Così con Raikkonen, e poi felice. Saremo alla vigilia della immediata vittoria. Della vittoria di Valentino Rossi. Sì, nella Texas. MotoGP. Tutti a toccarsi. Valentino Rossi. Sì, adesso bisogna dimenticarsi del Qatar, si rinizia da un foglio bianco, perché questa è una pista totalmente differente, è una pista dove non sono mai salito sul podio e dove né per il mio stile ma soprattutto per la M1 non è che gli si adatta molto bene, ecco. E tecnicamente parlando, in questa pista ci sono 3-4 frenate che si va da 350, 320, 300 all'ora fino a 80, e quindi è quella la cosa su cui si deve concentrare, e fermare la moto fino a bassissima velocità, ma nello stesso tempo ci sono anche tante curve di medio raggio, ecco, quindi non bisognerà esagerare da una parte o dall'altra, ecco. E così Valentino Rossi, stasera avremo i primi exit poll, quelli sulla Cina li abbiamo già avuti, Hamilton l'avete sentito anche nel giornale radio, si è ripreso grosso modo il suo, cioè il giro più veloce, ma continuiamo a credere, anche ieri Giorgio Terruzzi ci spiegava che alla fine ci sono quattro macchine, le altre sono talmente staccate che la battaglia non può che essere tra Mercedes e Ferrari. Dicevamo di Ibra pluripregiudicato, ha segnato 3 gol, il giorno dopo se ne è beccato 4 di squalifica, più una giornata in Champions, diciamo che gli va peggio rispetto ai signori che hanno messo la striscione a Roma, che sono a casa a fare la grigliata. Sì, gli va peggio, diciamo che in questo periodo della stagione è abbastanza un classico per Ibrahimovic, se ti ricordi, anche con il Milan quando arrivava la primavera, se erano quelle annate un po' così che gli partiva la brocca, lui prendeva le sue giornate di squalifica. Detto questo, anche in Francia continuano a scrivere che c'è questo rapporto ormai compromesso tra tante stelle del Paris Saint-Germain, Blanc e l'ambiente, tutte. Quindi prepariamoci a un'estate scoppiettante. Oggi alcuni giornali scrivevano con forza di Cavani alla Juventus, e probabilmente se c'è un anno buono per la Juventus per provare a riportare Cavani nel campionato italiano, questo è l'estate che Toto panchine facciamo, tanto cambia tutto. La tessera, prima tessera del domino è Benitez, che lascia il Napoli. Benitez che se ne va. La seconda è Mihajlovic che lascia Genova. Perché qualcuno ha detto anche Benitez, attenzione, perché se non passa al Wolfsburg lo mandano via subito. Sì, non però sono dettagli, nel senso sono che dettagli, non è più cambia poco. È di fatto non è più allenatore del Napoli. Quindi il secondo è tassello è Mihajlovic, che oggi al Corriere della Sera ha praticamente detto, annunciato che lascerà la panchina della Sampdoria. Io credo che su Mihajlovic ci siano fondamentalmente due squadre, una è lo stesso Napoli e l'altra potrebbe essere Milan. Bisogna vedere chi delle due per prima si chiarisce le idee. Sul Napoli dobbiamo dire, anche se il nostro Giorgio De Luca l'ha twittato per tutta mattina, il ritorno di Mazzarri al San Paolo, dobbiamo dire che non succederà. Proviamo a sbilanciarci. Mazzarri sta ricevendo tante telefonate, perché evidentemente è un allenatore importante, apprezzato, e che l'anno prossimo credo troverà una panchina e quindi libererà anche Toir del peso del suo stipendio. Però quella panchina non sarà il Napoli. L'altro è Spalletti. Dove va Spalletti? Di questo giro, che si dice sia in realtà il favorito per il Napoli. Cioè il Napoli balla su questi due profili, quello Klopp, un po' no? Quello un po' più duro, che è Mihajlovic, anche a livello di gestione di tutto l'ambiente, e quello un po' più affascinante come gioco, Spalletti. Chiudo un attimo sul Napoli. In realtà il profilo numero uno, quello di Mihajlovic, aiuterebbe De Laurentiis anche a colmare alcune lacune che sono emerse in queste settimane, perché quella critica lì di De Laurentiis, quella sulle notti brave, adesso non stiamo a riaprire tutto, nascondeva però anche la considerazione che davvero al Napoli manca una figura di raccordo, un dirigente forte vicino alla squadra, capace di tenere in mano un po' tutta la situazione. Cioè, tu dici serve se quello, tu metti nello spogliatoio uno come Mihajlovic, che è un sergente di ferro, magari puoi ancora fare a meno di quella figura lì. Serve è il comandante, insomma. È vero che Ancelotti va via dal Real, secondo te? E chi va potrebbe andare al Paris Saint-Germain, chi potrebbe andare al Manchester City sono le due panchine più ricche, più ambite e presumibilmente vuote. Guarda, io credo che Ancelotti probabilmente, come ci racconta Filippo Maria Ricci, a fine stagione a meno di undecima andrà via dal Real Madrid, ma perché il livello delle attese e delle richieste a Madrid è talmente alto che arrivare a un'ulteriore conferma, un'ulteriore stagione è difficile per tutti, quindi è difficile anche per Carletto Ancelotti. Poi dove potrà andarsi a sedere Ancelotti io francamente in questo momento non lo so, c'è chi anche parla di questa ipotesi che possa rientrare nel giro della nazionale, ma mi sembra tutto molto complicato a partire da una partenza di Conte dalla Federcalcio prima dell'Europeo del 2016. Sulle altre panchine io do per scontato Allegri e Mancini, il fatto che rimangano lì, sì, dove sono. Tutto il resto mi sembra molto, molto in movimento. Sì. Montella probabilmente rimarrà a Firenze, così Montella ha detto lui, che al momento non al esiste momento nessun presupposto perché per si separi dalla Fiorentina. Sottolineo al momento, però diciamo che Montella ci aveva abituato a finali di stagione più turbolenti e più incerti dal punto di vista delle valutazioni sul suo futuro. Mi sembra che questa volta si sia espresso abbastanza con chiarezza e quindi tenderei a mettere a posto anche quel tassello lì. Ivano, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. E complimenti per la coerenza. Volevo dire una cosa, un'autocritica, no? Stesso a noi tifosi del Napoli, perché sono amante della maglia del Napoli, ma non dei calciatori. Sento parlare ogni partita, Benitez doveva mettere, Benitez doveva fare. Si parlava perché Gabbiadini non giocava dall'inizio, giusto? Sì. Ha giocato in settimana con la Lazio, sì, ha fatto una discreta partita, però non è che ha fatto chissà che. Gargano, ci siamo lamentati che a Roma una partita per fare la guerra non è stato messo Gargano, va bene, ha giocato mercoledì, quindi per me il calcio non conta né se e né ma, quindi un po' di più coerenza di noi napoletani. Sappiamo che comunque sono squadre più forti e noi quello che manca è la mentalità vincente. Di certo non si può acquistare con i soldi di De Laurentiis. E poi un'altra cosa, una domanda che lascio a voi e poi vi saluto. Volevo sapere come mai quando dovevano arrivare i top player oppure grandi giocatori se vanno nelle altre squadre fanno panchina, e invece la domanda che ci facciamo quando devono venire a Napoli, ma quello va in panchina, quell'altro riesce a non giocare? Grazie e buonasera. Grazie a lei. Beh, sulla panchina dei top player, cioè il Napoli ha abbondanza davanti, però mi sembra che quello sia il minore dei problemi e anche il minore degli errori di Benitez, nel senso che spesso Benitez in questa stagione le partite le ha giocate ruotandoli tutti e cinque, tutti e sei, quando è arrivato Gabbiadini, prima c'era Insigne, cioè magari una partita parte Calleon, Mertens sta in panchina, entra dopo un'ora, e quella è la forza del Napoli. Il problema del Napoli sono gli altri sette, cioè quelli dal numero uno al numero 7, sì, sono quelli i problemi del Napoli. L'eccesso di turnover non lo condivido, Giovanni, perché sì, però, anche a Roma dove hai qualità davanti come il Napoli nei tre che stanno dietro ai Higuain, la possibilità di ruotare anche all'interno della stessa partita e quindi a maggior ragione all'interno di una settimana, tu te lo puoi permettere questo, e secondo me non è lì che il Napoli ha perso il filo della sua stagione. Il problema è che il Napoli si è indebolito nei due di centrocampo, ad esempio rispetto all'anno scorso, ha dato via il centrocampo della nazionale svizzera e di fatto l'ha sostituito con uno scarto di ritorno come Gargano, che poi ha fatto una buona stagione, però se oggi i tifosi si lamentano di Gargano qualcosa vorrà pur dire. Sulla mentalità fate il conto dei punti che il Napoli ha buttato via con le squadre della parte destra della classifica e poi vi siete dati la risposta. Certo. Gianni, Bologna. Buongiorno direttore Genta. Buongiorno direttore, no, direttore, direttore dal 22 agosto va bene Carlo, prossimo. Va bene, intanto Carlo. Volevo fare i complimenti a lei, a Capuano, a Pardo, che siete un trio meraviglia, grazie. Se mi permette, e grazie che agliettate sempre questi pomeriggi. Niente, la mia domanda era questa: al di là del fatto che Conte non si discute come allenatore, forse come uomo, ma io credo che Allegri, per quello che sta facendo oggi alla Juve, possa riscrivere la storia. E secondo me ha una grossa somiglianza come squadra a quella di Lippi. Questa è la mia domanda, grazie. Grazie a lei. Io ho detto molte volte che Allegri sta vivendo la stagione della sua consacrazione e sta gestendo in maniera perfetta fin qui, dal giorno 1 fino ad oggi ha gestito tutto quanto in maniera perfetta, compreso i cambi di modulo, compreso l'atteggiamento con cui si è proposto, ma d'altra parte basta guardare in faccia i giocatori e sentirli parlare di Allegri per capire che non sono molto lontano dalla verità. Dopodiché oggi Allegri, che è persona correttissima, ha ricordato che sta suonando su uno spartito che comunque gli era stato già scritto da qualcun altro in 3 anni meravigliosi. Perché io, prima di prendere Conte e buttarlo via come un ferro vecchio, ci penserei non una ma 10 volte se fossi un tifoso della Juventus. Certo. Allegri sta facendo benissimo, però questa Juventus l'ha ricostruita da zero, almeno dal punto di vista tattico, delle motivazioni, della ferocia, e questo l'ha fatto Antonio Conte. Così come Capello fece quello che fece al Milan dopo Arrigo Sacchi. Sai che oggi ha detto questa cosa in un'altra bella intervista fatta con il nostro amico Max Nerozzi sulla Stampa? Donadoni ha detto: Allegri rispetto a Conte mi ricorda esattamente la parabola di Capello dopo Sacchi. Sì, è una similitudine abbastanza lampante. Oh, abbiamo Simone Sandri dagli Stati Uniti. Ciao Simone. Buon pomeriggio. Come stai? Molto bene, grazie. Senti, stavo leggendo adesso, volevo partire da altro, però è finito il viaggio di questa cestista, Laura Neal, che aveva giocato la sua ultima partita, era malata terminale, ha espresso il desiderio di giocare un'ultima partita con la sua squadra. Se n'è andata, una notizia che insomma ci lascia. Sì, è stata ci fa venire i brividi. Fonte di ispirazione di tantissime persone. È stato diagnosticato a 19 anni un cancro terminale al cervello. E lei aveva firmato per giocare a livello collegiale con Mount St. Joseph University. E lei in NCAA per una volta ha fatto una cosa molto intelligente. Io sono un grande critico del basket NCAA per alcuna una sorta di una grande ipocrisia di fondo, ma a parte questo, hanno anticipato l'inizio della stagione per permetterle di giocare la sua prima e unica partita di college basket. Lei ha segnato un canestro dopo pochi secondi, nonostante il tumore fosse già in uno stato molto avanzato e avesse dei problemi anche a usare la mano destra. Infatti segnò con la mano sinistra, ci fu una grandissima cosa. Lei disse che era un titolo più bello della sua vita, e purtroppo la sua corsa è finita oggi, ma è una fonte di grande ispirazione. La sua fondazione ha già ottenuto più di 2 milioni di dollari di contributi per la cura al cancro, per cui è sicuramente una rimarrà credo nella storia per quello che ha fatto, ed è ovviamente una giornata terribile. Sicuro. Invece sempre NCAA abbiamo visto il lunedì più bello dell'anno, no? In America, finale NCAA vinta da Duke in coronazione di un allenatore che ovviamente va dritto nel libro delle leggende, ma c'era già Mike Krzyzewski. Sì, esatto, cioè il dibattito che c'è stato credo post finale, post vittoria di Duke su Wisconsin, è proprio questo, su come se si cambia un po' l'approccio a Mike Krzyzewski, se viene considerato un allenatore migliore di quello che era considerato domenica. Secondo me non è così, ha vinto 5 titoli, il quinto titolo, quindi è da solo dietro al grande John Wooden, quello che è considerato da tutti come il più grande allenatore della storia del basket NCAA, ma forse uno dei più grandi allenatori di pallacanestro in generale. Credo che ormai sia giusto anche mettere Coach K probabilmente su quel livello, perché vince 5 titoli adesso, considerata la competizione e le difficoltà anche di allenare a livello collegiale, quando i giocatori vanno, è difficile anche avere una squadra che duri nel tempo, che duri 4 stagioni, perché i giocatori vanno in NBA molto presto. Sicuramente Coach K è un allenatore che probabilmente trascende anche il suo sport, un allenatore che secondo me avrebbe fatto benissimo anche a livello professionistico. Nell'NBA ha avuto diverse occasioni per andare per fare il salto nel basket NBA, non l'ha mai fatto, è rimasto a livello collegiale, credo un mito difficilmente verrà imitato. E non dimentichiamoci anche quello che ha fatto la nazionale americana, certo. È riuscito a trasformarne lo spirito e l'anima rispetto a quelli che arrivavano. Chi è il numero 4, chi è il numero 5, contro chi giochiamo oggi? Le hanno prese, poi hanno avuto un approccio e un atteggiamento diverso. Non dimentichiamo anche che Coach K fu il vice di Chuck Daly nella squadra più forte di tutti i tempi, Barcellona 92. Quindi, esatto, chiudo dicendo che è un allenatore che è riuscito a farsi rispettare anche dai grandi, da LeBron per prima, è uno degli allenatori preferiti anche di LeBron, e dei, dei giocatori di, al piano di sopra, per cui è sicuramente entra di diritto nella storia della, della pallacanestro, e non da, da quando ha vinto il suo quinto titolo. Se avesse perso contro Wisconsin non mi sarebbe cambiato una virgola. Il mio giudizio è il giudizio credo di tutti, certamente, nei confronti di Coach K. Certamente. L'ultima cosa, questa storiaccia di cronaca relativa a Chris Copeland, un giocatore di Indiana, lo ricordiamo, l'altro giorno dovevano giocare a New York contro i Knicks, è stato accoltellato in maniera seria, poi c'è stato l'arresto di due suoi compagni di squadra che conosciamo bene, sono europei, uno ha giocato in Italia, Biella, ed è Sefolosha, e l'altro è Antic, arrestati per intralcio alle indagini. Sì, è una storia veramente stranissima. Allora, Copeland gioca per Indiana e praticamente si sono trovati a One Oak, che è un club famoso a New York, e alle 4 del mattino all'uscita del club Copeland è stato avvicinato da un uomo, c'è stata una discussione ed è stato accoltellato più volte, sì. Per fortuna non è in condizioni serie, è ancora in ospedale a New York, non è in condizioni serie. Nello stesso club c'erano Sefolosha e Antic, che peraltro giocano per Atlanta, e praticamente non hanno, all'arrivo della polizia avrebbero avuto da ridire per il tipo di indagine che stavano facendo i poliziotti, non volevano far interrogare alcuni testimoni. È stata una situazione un po' strana, c'è anche sì. un video su YouTube sull'arresto dei due giocatori. La cosa incredibile è che Sefolosha è stato, non si sa se durante l'arresto, prima, durante c'è stata una discussione anche tra Sefolosha ed alcuni passanti, si è comunque fratturato una caviglia. E la cosa incredibile è che Atlanta, che è la squadra che potrebbe fare più rumore ad est, potrebbe essere la vera alternativa a Cleveland, adesso perderà Thabo Sefolosha, che è il suo miglior difensore, è un giocatore secondo me fondamentale per Atlanta, lo perderà per tutta la stagione, perché adesso si è fratturato una caviglia, rimarrà fuori per tutta la stagione. Pazzesco. Per cui è veramente una beffa atroce, oltre al discorso legale che comunque andrà avanti ancora per Antic e Sefolosha, credo che la beffa atroce sia per Atlanta, per i suoi tifosi, che adesso perdono un giocatore veramente importante, un giocatore che sarà stato fondamentale anche secondo me nella finale di conference che sembra annunciato tra Atlanta e Cleveland, perché è un giocatore che aveva fatto la differenza a livello difensivo. Chiaro. Mamma mia, CSI vero. Grazie Giovanni Capone, ci vediamo domenica 17. Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Aureggio in regia, Daniele Buonamici in redazione, a domenica, ciao, arrivederci ragazzi, ciao. We'll be right back.